Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Giuseppe Cruciani della Zanzara, lui che è il genio del male, che ha capito, insieme a Sancho Panza Parenzo, non so se lo conoscete, lo scudiero di Cruciani, ha capito, se io faccio parlare la gente, la miseria umana, se la faccio parlare, diventa un programma straordinario. È un maleducato lei? Mi fai ridere, Cruciani. Siete proprio delle bestie. Io le voglio bene, la perdono. Allora, caro David, durante questo fine settimana c'è un tizio che mi ha offerto di un tatuaggio. Dice, perché non ti fai un tatuaggio? Fai tatuaggi questo tizio, un tatuatore. E io ho detto, no, guarda, io il corpo sinceramente non lo voglio toccare. Mi dà anche un po' fastidio il tatuaggio addosso. Cioè farmi scalfire la pelle, farmela rovistare, poi ti rimane per tutta la vita, magari ti penti, no? Ti penti, appunto. E poi c'è quella roba lì sulla pelle, una cosa terribile, tremenda, però per carità, massima libertà. Sì, figurati. Per convincermi, a un certo punto mi ha detto, ma lo sai che ci sono dei servizi che praticamente possono, quando sei morto, i tuoi cari, per ricordarti, possono strapparti il pezzo di pelle con il tatuaggio. Capito? Possono strapparti il pezzo di pelle con il tatuaggio e praticamente conservarlo, metterlo all'interno di un quadro. Dunque, qualsiasi persona che ha un tatuaggio lo può conservare anche dopo la morte. Ovviamente non, ma perché un tatuaggio, anche un capello, allora non può conservare. No, ma un pezzo che uno si ricorda, no? Il pezzo di braccio, un pezzo di. Ma che schifo! Tu lo conservi, lo metti lì in quadro. Ma non conservo niente, ma che porcheria è? Ma è arte, no? Si può conservare. Ma arte, come, ma no? Scherziamo. Assolutamente, ci sono delle persone che lo fanno. In Germania lo fanno. In questo caso in Germania lo fanno, ti assicuro. Cioè, no, perché buttare un tatuaggio dopo la morte? Tu, ma non mi affascina, ecco. Lo puoi tranquillamente, anche questa è una forma, come dire, di imprenditoria, se vogliamo, no? Siamo sempre sulla radio del Sole 24 Ore, se vogliamo. Tu, sì, puoi, certo, conservare il tatuaggio. Puoi conservare il tuo tatuaggio strappando una parte della pelle dal morto. Eccolo là, tac. Anche una cosa di un cardinale, il cardinale Antonelli. Pensavo volessi parlare del caso del signor Cameron. No, del conservatore, ma quello sicuramente che faceva sesso mettendo l'uccello dentro la cosa, mettendo il suo organo, facciamo così, l'organo genitale maschile in una testa di un animale. Che cos'era? Un maiale morto. Per giunta. Scrivono i suoi detrattori. No, due detrattori, una biografia di un suo ex compagno di scuola. Sì, ho capito, ma insomma, no, sicuramente non è un amico. Fumava cannabis, faceva sesso in modo strano, ecco. Eccetera, eccetera, eccetera. Com'è che faceva? Cioè, usava il suo organo genitale all'interno della bocca di un maiale morto, sì, naturalmente, sì, non vivo. Signor Cameron. Primo ministro britannico. Sì, molto bene. Allora, ti parlavo di un cardinale. Io lo sai che quando parlo di cardinali mi prudono sempre le mani. Mi prudono le mani. Il cardinale Antonelli. Ascoltate bene quello che dice il cardinale Antonelli, che è stato arcivescovo di Firenze, eccetera, eccetera, un cardinale molto anziano. Cioè, questi vorrebbero dettarci anche, come dire, no, i loro insegnamenti, vorrebbero parlare ancora alla gente. Nel mondo occidentale la mentalità individualista pervade il comportamento sessuale più di quanto pervada l'economia liberista. Si corre dietro al piacere senza freni. Le relazioni sessuali tra le persone adulte consenzienti sono considerate sempre lecite, anche se manca l'amore. Beh, amico mio, ma sei rimasto un po' indietro. Dunque, lui dice che non si può dare l'ostia ai risposati, tranne nel caso in cui questi qua rinuncino al sesso, cioè secondo lui bisogna rinunciare al sesso e allora si può ridare la comunione a chi si risposa. Ma il più grande resta sempre De Luca, resta sempre il nostro amato governatore della Campania, della Campania. Senti che dici innanzitutto sui 5 Stelle, su due dirigenti dei 5 Stelle, il signor Di Maio e il signor Di Battista. Mi è capitato di vedere due trasmissioni televisive su Rai 3, non so quale trasmissionaccia, ma erano presenti due valorosi esponenti dei 5 Stelle. Di Maio Luigi, nostro conterraneo, e Di Battista non mi ricordo il nome, Giovanni Di Battista, Pasquale, non mi ricordo. Che tenerezza, mi sono intenerito. Mezz'ora di trasmissione, come se stessero intervistando Kennedy, Roosevelt, Camillo Benso di Cavour, che video. È il numero uno assoluto. Ma perché? Cioè, non ci sarà mai un altro come De Luca, diciamo la verità, mai un altro come De Luca. Mai, ma è che anche il tono di voce, il modo sembra con cui che stanno, sembra che stanno intervistando Camillo Benso, conte di Cavour. Con un disprezzo, proprio con un disprezzo assoluto. E così ho visto Di Maio che. Ma mi sembrava di assistere, lei ricorda le vecchie Heidi. Le fa, a un certo punto io mi aspettavo che si sentisse in sottofondo la sigla di Heidi, sa? Ti sorridono i monti e le caprette ti fanno ciao. Poi arriva Di Battista, Di Battista le caprette facevano ciao. Ragazzi, ma siamo perché? Veramente al top assoluto, perché c'è un disprezzo, cioè per lui dicono solo cazzate questi qua, capito? Cioè dicendo solo cazzate, De Luca dice Heidi, li paragona a dei poveri ebeti, dei poveri Di Maio e Di Battista considerati dei poveri ebeti. Poi su Rai 3. Noi abbiamo in Italia un singolare privilegio, abbiamo una rete pubblica televisiva, Rai 3, che come io ho già sostenuto in altre occasioni, è la più grande fabbrica di depressione al mondo. Ma mi hanno detto che hanno fatto un altro servizio, le vicende giudiziarie, niente di nuovo, così. Si decide di avviare una campagna di aggressione, che ovviamente io auspico continui, perché più fanno questo più guadagno voti. La più grande fabbrica di depressione. Beh, meraviglioso. Io lo trovo stupendo, stupendo. Io se potessi lo voterei governatore del mondo. Del mondo. Certo, sì. Lunedì Salviniani continuano. Matteo Salvini, buonasera. Più mi dite che non li devo fare, pochi. Naturalmente, più li faccio. Buonasera. Ciao ragazzi, ma vi arrivano 30 messaggi, adesso cambio canale, adesso vado sulla Gazzetta a sentire il liscio, vergogna, fate parlare sto troglodita, sto razzista, sto omuncolo. Anche perché rappresento alcuni milioni di italiani che non penso siano tutti trogloditi, razzisti, chiedono regole e rispetto, semplicemente regole e rispetto. Senti, ma voglio chiederti una cosa. Ma io pensavo fossi a costruire il muro. Quale muro? Quello di Orban con la rete metallica. No, io voglio fare l'elogio del filo spinato. Sai che c'è un'azienda spagnola, Parenzo, che guadagna un sacco di soldi? Cioè praticamente sono esclusivisti del filo spinato, perché hanno trovato un metodo, perché non è il solito filo spinato. Molte aziende durante il nazismo anche facevano i soldi costruendo. Vabbè, che c'entra? Non è la stessa cosa. Stai paragonando il regime di Orban, il governo di Orban legittimamente eletto. Il governo di Orban legittimamente eletto a un governo nazista. Anche Mussolini nazista. Fu regolarmente eletto. Ma non puoi paragonare Orban a Mussolini, dai, su. Ma infatti un'altra epoca, non c'entra niente. Allora, il filo spinato è fatto da questa azienda spagnola in maniera che non passi nessuno, capito? Cioè i fili spinati normalmente la gente può passare. Questo qua, se tu superi il primo coso, zac, ti eccita questo. Beh, no, le cose ben fatte. Salvini, vuoi fare l'elogio del filo spinato? No, non vedo quello nel mio e nel nostro futuro, spero, perché quella è una risposta all'idiozia dell'avanti tutti, c'è posto per tutti, senza regole, senza documenti. Vabbè, senza però ti tutti. Piace il filo spinato, su, adesso non puoi dire che non ti piace il filo spinato di Orban, dai. No, preferisco altro, no, non mi piace il filo spinato, è brutta. Rivendico tutta la legittimità per un governo ungherese eletto liberamente dai cittadini ungheresi, a differenza di Renzi, perché Orban è stato eletto, Renzi non l'ha eletto nessuno, di fare quello che gli aggrada, e non capisco perché ci si debba intromettere l'Europa a rompere le palle all'Ungheria. L'Europa vada a rompere le palle alla Merkel, adesso sono buoni, sono ligi, e pare che la Volkswagen abbia fatto una delle più enormi truffe degli ultimi anni. Però non c'entra la Merkel, quindi è un'azienda. Quindi io spero in un futuro senza filo spinato, ma senza invasione programmata e finanziata come quella che stiamo vivendo, con un'operazione mediatica degna di Goebbels e dell'Istituto Luce, per cui se non hai un migrante, cioè, chi sarebbe come Goebbels? In casa, beh ragazzi, ormai mancano, abbiamo visto le fiction, abbiamo visto i telegiornali, abbiamo visto le foto, abbiamo visto i documentari. Ormai se non hai un immigrato in casa sei una persona di serie B, sei un cattivo, spregevole, è veramente una campagna, un bombardamento mediatico che non cancellerà la verità, perché non è che si possano cancellare limiti, regole, confini, però veramente è disgustoso. Senti una cosa, ma a proposito, qui non c'è più Parenzo, non c'è più religione, c'è anche, come si chiama, anche Briatore a fianco dei lavoratori del Colosseo. Ma non c'è dubbio. Io veramente trovo... Giusto, Briatore della Valle, hanno detto cose di buon senso che ho anticipato. No, io non mi dire che anche Salvini è dalla parte dei lavoratori del Colosseo. Ma senza dubbio, speriamo adesso. Tutti hanno un po' di buon senso. Per quanto mi riguarda, potrebbero essere licenziati domani mattina. Licenziati domani mattina. Uno che danneggia l'immagine d'Italia già in difficoltà nel mondo. L'assemblea sindacale te la fai in un altro momento. Danneggia non l'immagine. Non te la fai quando ci sono migliaia di turisti in lavoratori coda. Non pagati da un anno. Ma con che gli straordinari, c'entra, dai. Ragazzi miei, il lavoro si paga. Rivendica i tuoi diritti quando vuoi, come vuoi, ma senza danneggiare un paese che sul turismo. E che hanno danneggiato? Comprare. Hanno fatto tutto a norma hanno di danneggiato, legge. Ma che c'entra quello? E allora è sbagliata la legge, non me ne frega niente. Il diritto a fare un'assemblea di un'ora e mezza, e adesso sono loro che danneggiano e non chi ha gestito i beni culturali in tutti questi anni. Ma cosa veramente incredibile. Ma cosa siete? C'entra? Le immagini delle file restano e sono rimaste. Io pensavo che il Salvini, come dire, da fianco dei lavoratori, almeno a fianco dei lavoratori italiani, certo, sono tutti italiani, bianchi. Che si spaccano la schiena 16 ore al giorno e non fanno assemblee sindacali. Quelli guadagnano 1000 euro al giorno, 1000 euro al mese, mi dicono che molti... e devono essere pagati. Peraltro... Sai quanti lavoratori del privato, partite IVA, commercianti, artigiani non fanno le assemblee sindacali e guadagnano meno di 1000 euro al giorno e non rompono le palle al prossimo? Ma se lo Stato non mi paga, ma che diritti ha? Ma scusami. Il lavoro e non rompere le palle. E quelli hanno lavorato, infatti. Vai a prendertela con lo Stato, vai a prendertela con Renzi. E infatti hanno fatto un'assemblea di un'ora e mezza. Con Zingaretti. No, no, ma non quando c'è la gente fuori che aspetta. No, fermi il traffico. Non scherziamo. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Allora, vogliamo dirlo a voce alta, Parenzo, in questa trasmissione della riforma del Senato. A questa trasmissione della riforma del Senato non frega un cazzo. Non interessa forse poco. No, diciamo. Non ce ne frega poco. Nulla. Io credo anche agli italiani. C'è tutto un dibattito sull'articolo 2. Sull'articolo 2, sul Senato elettivo o no. Il Senato si chiude. Altrimenti è inutile mantenere in piedi una roba indiretta, diretta, non ce ne frega niente, è tutta una lotta interna al Partito Democratico per fare fuori Renzi. Il bicameralismo, ma perfetto, sì, ma così quello, detto, ma... hanno capito tutti. Chiudiamo, in questo modo. Chiudiamo, baracca e burattini. Cioè, se io credo che Salvini lo possa dire forte, Matteo, non ce ne frega niente della riforma del Senato, a te non te ne frega un cazzo, di la verità. Ma l'ho già detto 18 volte, a furia di sembrare. Lascia perdere il paragone con le cose economiche. No, no, non me ne può fregare di meno il premio di coalizione, il premio. Ma quello partito, è la legge elettorale, un'altra cosa. Senato elettivo. No, ma siccome sono le beghe su cui si stanno scannando nel PD, non si stanno scannando sulla legge Fornero, sugli studi di settore, vabbè, si stanno scannando quello. Sul Senato elettivo, metto il sindaco, metto il consigliere regionale. Sono d'accordo con te, se serve, lo eleggi. Come le province, come quella cagata che ha fatto sulle province. Che hanno fintamente cancellato, non hanno cancellato, sono ancora lì, costano uguale ma non sono elette. Io le ho difese le province perché secondo me servivano, perché soprattutto in territori amplissimi, e posso andare controcorrente, posso perdere voti, io se sono convinto di una cosa la sostengo, al di là del voto che perdo o che guadagno. Le province si occupavano della tutela del territorio, della manutenzione degli edifici. Ma il problema è che purtroppo i dipendenti sono rimasti. Appunto, allora no, non fare la renzata. Se ritieni che non serva, io non sono d'accordo, ma le cancelli. le cancelli, proprio le annulli, le distruggi. Ho capito, poi i dipendenti restano comunque, che fai? Le mandi per strada? Ma ponitelo prima il problema e allora falle eleggere, non nominatele in casa del PD, perché ormai decide tutto il PD. Il Senato lo decide il PD, le province le decide il PD, i comuni se li decide il PD, insomma, con le primarie. Ragazzi, allora andiamo insomma, non mi dire che pure tu sei dalla parte di quelli che dicono la dittatura, perché non è così, eh. No, ma io rido quando mi danno del nazista, del fascista, figurati. Non uso aggettivi a sproposito, dico che semplicemente Renzi non è all'altezza. Sì, ma ti piace l'immagine del Papa con Castro? No, di la verità, però. Liberissimo, se porta pace ben venga. A me personalmente non piace, però è un gusto mio. Io, guarda, ho appena finito di leggere un libro di una decina d'anni fa, I preti uccisi dai partigiani nel dopoguerra, oltre un centinaio di sacerdoti sterminati in Italia a guerra finita. Sì. E quindi chi mangiava preti e cristiani fino a qualche decennio fa non rispolveriamo, mamma mia, rispolveriamo ancora sta storia dei comunisti, mangiano i bambini, sparano i preti, roba da Berlusconi del 94. Cioè, tu dici il Castro è un criminale, il Papa non dovrebbe. Andate a leggere. Cioè, Obama incontra Castro e Salvini critica Castro. Hai capito la differenza? Ernesto Che Guevara e Fidel Castro cosa facevano? Non sono i cristiani. Il Papa non ti piace l'immagine? Obama incontra Castro, dove vuole, di portare il suo messaggio di Vangelo come vuole. Non sono io a dover dire dove va il Papa. Va a Cuba, le sanzioni contro Cuba e la Russia, come sono oggi contro la Russia, quindi fa bene a portare pace. A me personalmente vedere il Papa al fianco di un dittatore 40 anni affamato un popolo, una brutta immagine, dice, non mi entusiasma, però va bene. È una brutta immagine, dice. Se gli americani fanno il disgelo con i cubani, arriva Salvini e dice di no. Anche il regime cubano, ben venga. Senti, resta in un'isola, resti da solo con la Boldrini, in un'isola sperduta, che succede? Cosa faccio, resto? In un'isola sperduta da solo con la Boldrini, unica donna. Ma per carità di Dio, nuoto fino alla prossima isola. Beh, capito, però non c'è possibilità di nuotare, magari. Cioè, ma no, isola sperduta sugli squali. L'ipocrisia fatta per... Vabbè, d'accordo, ma isola sperduta, che fai? Bisogna che il genere umano si riproduca in qualche modo. Ma se ha una mano la soccorro, però a debita distanza. Tutto, penso che lei dica uguale di me, quindi non mi offendo. E con Alfano invece resti da solo in un'isola sperduta, signor Alfano. Ma guastare, già è lunedì, già sei maleducato che non mi hai fatto gli auguri, che è San Matteo, e poi San mi Matteo, metti in isola con la Boldrini, con Alfano, altre simpatiche compagnie da vabbè, no, ma che c'entra, cioè, no, può succedere. Dai una controllatina ai tuoi sgherri di Radio Padania, ogni volta lì qualche telefonata prende la mano, ma viva, lunga vita la libertà. Per la libertà di pensiero e di parola, dai, su, basta questa cosa. Ciao. Altro che parolacce, ne dico 20 di parolacce. E se non vuol venire a ascoltare le parolacce, non viene in questa trasmissione. Alle porte dell'Europa, Radio 24, lungo le rotte della migrazione. Subotiz, Edirne, Chop, Kos e Lampedusa. Sono le porte dell'Europa, luoghi di una frontiera su cui preme l'ondata migratoria di chi fugge da guerre e disperazione. Nel mese di settembre, Radio 24, con i suoi inviati, vi porterà ai confini di un continente che si sente sotto assedio. Ogni venerdì, nei GR, in effetto giorno e in effetto notte. Il sabato mattina, nel reportage europeo. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Allora, molti se la sono presa oggi con la vincitrice di Miss Italia, una ragazza che si chiama, se non sbaglio, com'è che si chiama? Alice Sabatini, perché interrogata da Claudio Amendola sul periodo storico in cui le sarebbe piaciuto vivere, sul personaggio storico che vorrebbe incarnare, diciamo così, ha risposto in questo modo. In quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere e chi vorreste essere state? Bene, Alice, prego, visto che sei la prima qui. Nel 42, 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale? Nel senso l'anno, va bene, poi c'è una motivazione pure a tutto ciò. Sì, per vedere realmente la Seconda Guerra Mondiale, visto che i libri parlano pagine e pagine, la volevo vivere. Però tanto sono donna, quindi il militare non l'avrei fatto, sarei stata a casa con la paura di... Capito Simone, siamo passati da vorrei la pace nel mondo a vorrei vivere la guerra, Miss Italia. Ragazzi, ma che beata cazzo? Beata ingenuità. No, ma beata al di là del fatto so donna, dunque non avrei fatto il militare, vabbè, dunque sarei stata a casa ad aspettare il marito. È venuta la prima sciocchezza che ha. Vabbè, una sciocchezza, questa c'ha 20 anni, no, appunto, ma che ti aspetti? Detto, no, la cosa incredibile di questa vicenda è un'altra, è che probabilmente, anzi molto probabilmente, data la rapidità della risposta di questa ragazza, Alice Sabatini, era tutto preparato, cioè queste sapevano già le domande che avrebbero fatto questi della giuria, no? Perché altrimenti questo non lo so. Sì, perché altrimenti la risposta non sarebbe stata così immediata. Ma visto che è stata titubante anche sul 42, ma, no, ma che titubante? Ha detto 42, ha detto, cioè uno sì, dice... ma quello gli ha detto, giustamente Amendolino gli ha detto ma 1800, 1900, no, ho capito, 1900. Lei diceva, intendeva chiaramente 1940, non è che la prima cosa che ti viene in mente è 1942 perché c'era la guerra, ne parla nei libri di storia eccetera. Dunque la cosa più incredibile forse è quella che già sapendo la risposta, no, sei andata a studiarla quasi la risposta già sapendo la domanda. Comunque ragazzi, avrei voluto vivere la Seconda Guerra Mondiale, tanto da donna non avrei fatto il militare, è una risposta meravigliosa. Oh, Ferrero era anche ieri a Miss Italia, impazzava ovunque ormai. C'è anche arrabbiato a un certo punto, aveva paura che gli togliessero l'audio. Sì, perché sicuramente stava dicendo qualche cosa che non andava. Sì, dai, appunto, basta. Che vuoi dire che non mi staccano il microfono a questi signori che mi fanno parlare questi, lo puoi dire? A chi? A quelli che spengono il microfono, se non me ne vado. Capito? Quelli che spengono il microfono, dire se non me ne vado. Ecco. Devo stare sereni. State sereni. E voi applaudite! Siete sembrati tutti stanchi! È meglio. Simone Ventura! Massimo Ferrero, va bene. Vai. In effetti è meglio se gli tenete il microfono aperto, se no sale sul palco, quindi meglio. Ma che sto a fare? È l'esodato! Sì, no, vabbè, ma. Sembra un cassa integrato, sto a cassa integrazione. Massimo! Guarda la mano fatta. Ma tu lo sai che secondo me Ferrero si fa anche pagare per queste cose qua. Vabbè, ma questo non c'è. No, si fa pagare, strano. Cioè non va lì, non va lì. Uno non dovrebbe avere bisogno di farsi pagare la presenza a Miss Italia, no? Signor Ferrero, non ha bisogno. No, però con tutti i costi che ha la Sampdoria. In teoria no, in teoria no. Tutte le donne sono belle. Se una donna è bella, punto. Magari. Tutte le donne sono belle. Ma che belle. Bordi una donna brutta? Quella che c'ha orecchie da tumbo. Magari teniamo una donna in più, eliminiamo Massimo. Va bene, dai. Andiamo a Bologna, Luigi. Sono Luigi da Bologna. Dimmi. Pronto? Vai, dimmi. Sì, niente, io volevo dire che mi sono scandalizzato anch'io su quello che è successo a Roma per quanto riguarda il Colosseo per i... Ti sei scandalizzato poi? Sì, mi sono scandalizzato perché io sono un ex dipendente pubblico perché vinsi un concorso in ferrovia. Aspetta che mi sta chiamando Antinori, va? Aspetta, rispondiamo Antinori, va? Rispondi Antinori, io faccio... se posso, ma rispondo. Ma tanto questo qui sta dicendo sciocchezze, c'è da indignarsi soltanto Severino... Ciao caro, Luigi, sono Parenzo. Prosegui, tanto Parenzo parla con Antinori, dai. Non sto dicendo delle sciocchezze, perché io ho lavorato 6 mesi in ferrovia e poi mi sono licenziato perché mi vergognavo quando andavo a prendere lo stipendio, perché allora quando si lavorava molto si facevano 4 ore. Allora mi sono scandalizzato. Tu dici che comunque non si fa un cazzo. Sì, non si fa niente, questo qui lo posso mettere per iscritto. Vabbè, dico, questa è la tua esperienza, sono... grazie. Filippo, no, da Milano, vai, Luigi, ho capito. Filippo da Milano, vai. Sì, buonasera a tutti. Io dimmi. Volevo intervenire su il, diciamo, alcune deviazioni sessuali che avevano alcuni reggimenti inglesi, anche perché se la parlava prima. Inghilterra durante sì. il come fai a saperlo, scusa? Saperlo perché i libri di storia parlano dei Gurkha e parlano ad esempio di questo reggimento inglese di cui gli ufficiali, il loro piacere era sodomizzare le oche, appena il pene era penetrato gli tagliavano la testa, aveva lo sfintere, aveva delle contrazioni e venivano nel sedere delle oche. No, beh, aspetta, scusa, non ho capito questo dove accadeva tutto ciò e che cosa c'entra con la vicenda di Cameron? No, beh, Cameron, insomma, a un certo momento uno che si fa fare una specie di pompino da un maiale morto, anche lui non è che sia una persona del tutto normale. E poi i Gurkha, questo grande battaglione indiano, terrorizzavano tutti i nemici perché avevano questo kukri che era un pugnale ricurvo e appena prendevano un prigioniero lo sodomizzavano e col pugnale gli tagliavano la gola. Quindi voglio dire, era una abbastanza una tradizione, non lo so, probabilmente gli inglesi sono. Vabbè, ma scusa, tu pensi che il premier Cameron abbia... No, per carità, però essendo inglese è caso strano sia i Gurkha, perché erano indiani ma erano sotto il regime inglese, e sia questo battaglione d'élite inglese avevano questo piacere. Ciao Ubaldo, provincia di Verona, vai Ubaldo. Ciao, dimmi. Volevo dire, la contraddizione che Salvini fa sugli emigranti, io ho dato una casa, io sono un meridionale che vive in Lombardia, ho una seconda casa, sì. L'ho data a una cooperativa per darla a una famiglia di emigranti, però lui non si rende conto che l'assistente sociale di quel comune ha anche famiglie italiane che ha bisogno della casa. La differenza, diciamo, di economica è così diciamo sfalsata che chiunque preferisce darla a degli emigranti. Perciò che cosa sta dicendo quando ci sono agevolazioni, perché non l'ha data alle famiglie italiane? L'incentivazione comunale non c'è. Hai capito? Non ho capito niente, scusami. Niente. No. Non ho capito nulla. Nulla. Come nulla? Nulla, non ho capito. Nulla. Tu hai dato la tua seconda casa agli immigrati, giusto? No, si dà alla cooperativa, perché la cooperativa... Vabbè, alla cooperativa, che poi gestisce con gli immigrati, con i profughi che arrivano. Allora? Ho detto anche, se c'è una famiglia italiana, datela a loro se ne ha bisogno. L'assistente sociale di quel comune dice che possa... questa cifra che è esattamente sproporzionata a quella che ti dà la cooperativa. Cioè? La cooperativa ti dà molti di più soldi? Oh, 10 volte tanto ti dà. Beh, ma certo 10 volte tanto, perché chissà quanti immigrati ci mette dentro quella casa. No. Viene l'ASL e dice qui più di 3 persone non c'entrano. No, è fatta bene diciamo, allora? La verifica. Cioè tu dici che conviene affittare agli immigrati? Sì, perché praticamente la società, l'istituzione favoriscono l'affitto agli immigrati, anche se tu... Ho capito, Giovanni da Lodi, vai Giovanni. Buonasera, dimmi. Parenzo. Niente, per quanto riguarda Salvini, che se l'è presa li licenzierebbe subito, sì. A me piacerebbe sapere se il signor Salvini ha mai lavorato 16 ore e si è spaccato la schiena nella sua vita. No, non credo, quindi... non credo. Fa politica da quando era ragazzino praticamente. E quindi forse sarebbe meglio che impara che cosa vuol dire veramente lavorare 16 ore. E poi dopodiché, se non fosse stato pagato, ma secondo me si sarebbe già legato. Ragazzi, davanti... questa cosa qui è veramente una cazzata, però. Continua a dirla Parenzo. Mi dispiace che la dica pure Briatore o altri ancora della Valle, eccetera. Qui non è questione di stipendio. Commenti. Erano in ritardo sugli straordinari. Peraltro, Franceschini, il ministro, a me non me ne frega niente di difendere Franceschini. Dice che il provvedimento per pagare questi straordinari era già pronto. E perché non l'avevano fatto prima allora? Ma io non lo so, lo stavano per fare, eccetera. I fatti sono diversi, poi ognuno la commenta come vuole. Che questi lavoratori da un anno non ricevono... Ma c'è gente imboscata da tutte le parti, ma hai letto questo che c'è gente imboscata, tema. Dai, questa su. È un'altra questione importante. Fermo lì che c'è la... combattuta, fermo non c'entra lì, niente. Fermo lì, imboscati. Ma... Voi della Zanzara, incominciate a essere rincoglioniti. La Zanzara. Basta! And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen now. ha pronunciato queste frasi: Grillo è un cretino, un idiota, una testa di cazzo, chiama il suo partito come un albergo o una TV calabrese, ma che cazzo è 5 Stelle? Vittorio Sgarbi, 13 dicembre 2012. Grillo è un uomo stupido, senza un'idea in testa, inventa un partito in cui non c'è. Mandano sconosciuti a fare i presidenti della Camera, sono niente. Grillo è peggio del fascismo perché voto qualcuno, un coglione che non va nemmeno in Parlamento. Grillo non è dittatura, ti mando a calci in culo della gente che non può parlare e che non hai eletto. È peggio del fascismo, Grillo, è proprio la negazione della democrazia. Un uomo stupido, senza un'idea in testa, che inventa un partito in cui lui non c'è. Ma che roba è? Tu hai votato lui e mandano la Lombardi a fare il presidente della Camera. Col cazzo! Questa è assoluta mancanza di democrazia. Peggio del fascismo. Beh, vogliamo riesumare Sgarbi che parla di Grillo mentre fa sesso? Quello che è certo è di uno che se scopa, scopa male, per quanto è brutto, grasso, tifoso e puzzolente, è Grillo. Se fa, fa con quella, come dire, grassezza molesta, quei peli infetti e quell'aria che non si capisce perché parli di Renzi, che è uno che magari si lava e pulito, non ne sa della lunghezza del cazzo di Renzi, si occupi dei cazzi suoi. Questo era il 17 ottobre, credo, del 2013. Ora una cosa tutto del cambia. No, 2013 non è possibile, credo sia il 2012. A un certo punto dice anche che non doveva accettare, ti ricordi, il famoso streaming con... Sì, con Bersani. Senti, senti. Non doveva accettarlo, l'ha accettato San Bersani, lui fa la conferenza stampa dopo, devo dire quello che vuole. Io parlo con te segretamente, dico quello che voglio dirti e dopo parlo la conferenza stampa e dico quello che ti ho detto. Non che vai lì con questo cazzo di merda di reality show utilizzando il governo per fare lo spiritoso, ha ragione Renzi. Grillo è un totale depensante ed è un assassino. E poi così per gradire merda uguale Grillo. Lui ha avuto il genio assoluto di riuscire a dare un nome al non voto. Per far scrivere merda scrivo Grillo, o merda uguale Grillo. Cioè, merda. No, ma è vero, è il nome del non voto. Ma è un genio assoluto. Allora, dopo questa sequela di attacchi, insulti, è meravigliosa, per carità, e arriva un incontro. Genova, incontro casuale con Beppe Grillo. Ma ci siamo ritrovati così d'accordo su tante questioni che quasi quasi facciamo un nuovo partito tutto insieme. Cambia. È meraviglioso, dai, è meraviglioso. Questo, questo Sgarbone, Allora, Marco, Milano, vai. Pronto? Sì. Ciao Fusciani. Cioè, uno mi scrive poi Carlo da Cremona. Fortunatamente Miss Italia l'ha vinta un'italiana, ma chi cazzo doveva vincere? Una araba, cioè una israeliana, una francese? No, perché questa persona che ti ha scritto, Carlo da Cremona, sì, Carlo evidente, da Cremona. Questo è evidente salame. Non sa cosa vuol dire un'italiana, sa che ci sono, no, si chiama possono Miss partecipare Italia, solo italiane, cioè il concorso possono si chiama partecipare Miss, solo italiane, appunto, Italia, ma in realtà ma lui forse dice, lui voleva dire meno male che non ha vinto una negra, dai, meno male che non ha vinto una negra, esattamente, ma voleva dire questa porcheria. Ciao Cristiano, io volevo dire una cosa adesso, però mi viene in mente di dirne un'altra. Vai, vai. No, volevo dire, ma perché ce l'hai tanto con quelli lì che hanno fatto sciopero? Perché hanno bloccato... Senti, hanno rotto, hanno il fatto sciopero, hanno fatto io mi sono rotto i coglioni delle riunioni. Hanno fatto norma di legge, un'assemblea, perché non sono pagati legge? Da un anno. Ma da un anno non sono pagati. Ma quale non pagati? Capito? Ma basta zitto. Con sta storia. Rimettiamo in ordine le cose. Ma che no, non un pagati, gruppo di lavoratori... Perché ti brucia questo fatto? Ma a me non mi brucia, a me non me ne frega niente. A me interessa che uno non venga pagato. A me la cosa che mi interessa, la cosa che mi interessa è non fare figure di merda. Allora, migliaia di fa lo Stato che non li paga, Luciani, non lo frega. In America o in Inghilterra lo Stato che non paga. A Parigi, dai, è stata chiusa la Torre Eiffel per dei giorni. Dimmi, dai. Dimmi. E allora quando dice ai tassisti che devono fare sciopero per Uber, no, io veramente non ho mai, non ho mai, io non ho mai appoggiato lo sciopero dei... No, ti sbagli. Io dico sempre ai tassisti che sbagliano. No, mai. Anzi, credo che gli scioperi dei tassisti o di chiunque altro siano sempre comunque un errore quando danneggiano l'utente. Nessuno che rivendica dei diritti deve danneggiare qualcuno. È evidente che c'è il danneggiamento. Diritti, sempre i diritti da rivendicare. E sempre i diritti, certo, se uno non viene pagato. Ah, dai, ma se uno non è pagato, certo. Ma di che stiamo parlando? Marco, che vuoi? No, appunto, volevo dire questa cosa qui, che per loro, per queste persone qui, no, invece quando ci sono i tassisti... Ma io non ho detto niente sui tassisti, per me è sbagliato qualsiasi tipo di sciopero per queste, per questioni di questo tipo. Uno deve capito? Star zitto e incassare qualunque cosa. Vabbè, Marco, cosa che volevi dire però? Un'altra cosa tu? Vabbè, se è sbagliato qualsiasi tipo di sciopero, basta, non dico più niente. Dai, che volevi dire? E dico, se per te qualsiasi tipo di sciopero è sbagliato, io non ho detto qualsiasi tipo di sciopero, lavoro, no, cose gravi, lavoro, per cose gravissime, per cose gravissime. Tu sei un operaio, tu che bravo, sei nato bravo, sai parlare, sai fare il tuo lavoro. Ma cosa c'entra, Marco? Dai, non c'entra niente. C'entra? Su questa ma che c'entra? Era una riunione sindacale di due ore che ha fatto restare fuori dal Colosseo migliaia di turisti. Annunciata. Piedi anche col taxi e si metti dalla parte dei tassisti. No, che c'entra questo? Ma perché io sono libero, per fortuna sono libero di criticare chi cazzo mi pare, scusami Marco, cioè sono libero di criticare anche i tassisti, quando sbagliano glielo dico in faccia, gli scioperi dei taxi sono sempre un errore, punto, lo sanno anche loro che sono un errore, lo dico, lo ripeto, non ti preoccupare, Luciano dalla provincia di Caserta, dai, Luciano, dimmi. Ascolta, ti volevo chiedere una cosa, una cortesia. Dimmi. Quando senti quel signore lì al nome di Luca, sì, il governatore della Campania, sì, chiedigli un pochettino come mai al 31 agosto finiti i soldi della sanità, sì, per cui non ci si possono fare più né elettrocardiogrammi, non si possono fare più analisi. No, Luciano, non conosco la situazione dei bilanci della sanità. Ecco, ti voglio dire questo. Quel signore lì, qualche settimana fa, l'ho sentito sempre la tua trasmissione che seguo tutte le sere, quel signore lì ha detto che lui vorrebbe portare i suoi consiglieri comunali con lo stipendio alla comunali stessa dove? Stregua regionali. Alla stessa stregua dei parlamentari di Roma lì, sì, quei pezzi sì, di merda, sì. Va bene? A portare a prendere lo stesso stipendio, sì. Ma lui pensa ad aumentare i stipendi dei suoi accoliti, ma non pensa che sospinga i soldi della sanità, per cui la gente, i pensionati, gli anziani, amico, non sanno più come cazzo curarsi. Amico mio, io non lo so qual è la situazione della sanità in Campania, dico semplicemente che aumentare lo stipendio dei consigli regionali è un'enorme minchiata. Assente dalla zanzara da un po' di tempo, anche se continuiamo a ricevere le solite telefonate di questi infami che lo chiamano col numero anonimo, che lo insultano, però qui proprio dal vivo lui, non era presente da un po'. Ha scritto anche un libro, lo sai, Parenzo? Sì, avevo visto che era in uscita. Era uscito un libro per Mondadori, sempre, direi, no? Del più grande giornalista. No, Marsilio. Ah, Marsilio. Direi del più grande giornalista. Si può definire anche così: uno dei più grandi giornalisti italiani. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Beh, uno ha fatto la storia del giornalismo. Uno dei più grandi giornalisti. Dillo, Parenzo. Emilio Fede è uno dei più grandi giornalisti. Quelli che ha fatto la storia del giornalismo in Italia. No, devi dire anche uno dei più grandi giornalisti. C'è la Fallaci, c'è. Nel tuo Pantheon, chi c'è tra i più grandi giornalisti italiani? Pantheon al primo posto, c'è sicuramente Oriana Fallaci, c'è sicuramente Giorgio Bocca, non c'è Emilio Fede, certo, nella top ten, perché tu lo consideri un lecchino, mi piaceva molto l'Emilio Fede inviato del TG1, mi piaceva Emilio Fede che ha dato per primo la notizia della guerra in Iraq, poi ultime altre cose mi piacciono di meno, ma insomma come a lui possono piacere di meno. Emilio, come stai, amico? Grazie, mio, come andiamo? La mia storia, speravo che non debba apparire troppo presto. Mi siete mancati, però avete detto delle cose giuste. Beh, giusto, adesso non esageriamo. Biagi, quando ha compiuto 80 anni, sul palco, ha voluto, fra i grandi grandi, cinque grandi, anche Emilio Fede. Senti, avete detto giusto in un momento. Senti, quando vuoi morire tu, Emilio? Come? Quando vuoi morire? Il più lontano possibile, più tardi. Cioè, se dovessi decidere, no? Quando vuoi crepare? Cioè, c'è una cosa. Sì. Cioè, soprattutto, come vorresti morire? No, questo è interessante. Come vorresti morire? Beh, guarda, io ormai ho una mia filosofia. Tutte le mattine, quando mi alzo, leggo i necrologi. se non ci sono vado a farmi la barba e poi si vedrà. No, ma come se dovessi decidere come morire, cioè come moriresti? Sono sincero. Scopando. Guarda, sono lontanissimo da tutto questo. Che ne so, no, ma te lo sicuro, guarda. In mezzo a Cuba, guarda, in mezzo a due signorine. So che forse sarebbe più divertente dire l'altro, però io vorrei morire mentre mia moglie, che ho fatto molto soffrire, mi tiene per mano. Se poi non si può fare, avrei preferito vivere, cioè morire in diretta. Morire in diretta. Cioè vorresti, la realtà è questa. Tu vuoi morire in diretta? No, ormai non posso più, non c'è più tutte le giornate. Posso morire in diretta parlando con voi. Volevi morire in diretta? Vabbè, puoi morire alla Zanzara, sarebbe stupendo. No, ma per carità, se io posso fare una scelta, amici carissimi che mi ascoltate, mi siete mancati, Sì, però? Parenzo col fatto che mo oramai è sempre in televisione, Non c'è Fede, c'è Parenzo, questa è la cosa. Va bene. Tu capisci che i tempi cambiano, non c'è niente da fare. Comunque vorresti morire come? Dai, un'idea ce l'hai avuta? No, ma ti assicuro, vado. Io lavoravo anche abbastanza. Volevi morire in diretta, diciamo, sì, prima volevi. Se uno deve andarsene, pazienza, è proprio un destino che se ne deve andare. Ma tu lo faresti un funerale come quello dei Casamonica? No, no. Beh, stupendo. Io vorrei. Ma Berlusconi al tuo funerale ce lo vuoi o no? Ma sì, no, io non vorrei né Berlusconi né nessun altro. Sì. Vorrei nessuno, pregherei che non si dicesse neanche niente. Ah, ecco, questo è buono. Io volevo andarmene in un posto lontano, in Africa, dove poi puoi sparire completamente. Ah, vuoi sparire completamente? Questo è interessante. È un'idea. Sì, no, questo qua non è male. Anch'io vorrei fare così. Sparire completamente, sì, sparire. Ma questo ti è venuto in mente di sparire completamente? A Parenzo? No, a te. No, io non voglio sparire completamente. Io volevo farlo, poi figurati, no. Certo, non vorrei andare a finire a, come si chiamano? Comunque, al funerale Berlusconi. No, i servizi sociali di quello là, di quel prete, come si chiama? No, Don Mazzi. No, quello mai. Don Mazzi no. Don Mazzi no, casomai scelgo Don Ciotti, sinceramente. Sì, ma voglio capire una cosa. Dunque, la tua aspirazione in realtà è quella di sparire. Dunque, Berlusconi comunque ai funerali non ce lo vuoi, diciamo la verità. Ma io non voglio. Il problema è che non vuoi manco il funerale. Non vuoi manco il funerale. Non voglio che nessuno mi immagini chiuso in quell'affare lì. Nella bara, in una bara. Non vogliamo neanche dire. Dunque, sparire dalla circolazione. Sì, era la mia idea. Era la tua idea. Vabbè, vediamo se riesci a realizzarla. Allora, scusa, non posso parlare della mia vita. Vabbè, ma ormai si avvicina il tempo, Emilio. Ma che dai, si avvicina? Che sei matto? Si avvicina il tempo per tutti. Te si avvicina. Ma per tutti si avvicina. Ma voglio dire, è logico. Ma cazzo, quanti anni hai? Scusa, Emilio. Emilio, quanti anni hai? Io? Posso dirlo? Sì, diciamo. Rimane fra di noi? Sì, rimane fra di noi. Allora, una volta poteva essere una cosa di nascondersi. 83, 84. Io ne ho compiuti 84. Senti, però. Ragazzi, ma 84 anni, io voglio arrivare col tuo cervello. Sì. Dopodiché è chiaro che si avvicina, no? Cioè, ma chi si avvicina? A 100 ma si avvicina, anni? Oh, si, ma avvicina. Che si avvicina. Ma perché gli ma tu vuoi, fino a che età vorresti vivere? No, veramente, cioè. Io? No, io sono sincero. Se rimane sempre fra di noi, proprio, io non ci penso proprio a morire. Ma che stiamo scherzando? Ma perché dovrei morire? No, però voglio dire, se il cervello non funziona più, sì. È certo che è un traguardo, ci mancherebbe altro. Come poterlo evitare? Non si evita. Lotta continuamente. Io sono arrivato alla mia età, vi devo dire, adesso ho scritto questo libro, sì, che non è un rimpianto, non è un pentimento. Vabbè. Ma il titolo si presta, guarda, vi dico una cosa. Se tornassi ad Arcole, il titolo è Se tornassi ad Arcole, ma dipende come lo si dice. Cioè, se tu dici Se tornassi ad Arcole, oppure Se tornassi ad Arcole. Come lo dici tu? Quindi è modo di interpretarlo. Vabbè, senti, io voglio farti qualche domanda molto rapida. Certo. La cosa è questa. Hai detto recentemente che ti piace Renzi. No. Insomma, diciamo la verità. Se vuoi passare, sei un lecchino. Sei un lecchino di Renzi adesso. Vuoi passare da lecchino di Berlusconi a lecchino di Renzi? Il discorso che poi ha fatto titolo nasce da una domanda, da un'intervista di un giornale, un'intervista intelligente, che dice: ma se non ci fosse Berlusconi, se Berlusconi calasse il sipario su Berlusconi dal punto di vista politico, ma è già allora calato, voterebbe sipario, Renzi. Io ho detto, perché no? Però non lo conosco, non l'ho mai visto. Però lo voteresti, lo voteresti. Non ci ho mai parlato. Non ci ho mai parlato, e neanche quando era al TG4 mi sono mai collegato con lui. Però è l'unico che ti piace, dai, l'unico che assomiglia di più a Berlusconi, dai, diciamola. Ma guarda, Renzi si sta. Non lo so, guarda, non voglio neanche dare giudizi. No, però è quello che assomiglia di più a Berlusconi o no? Posso dirvi, cioè voglio dire, quando veramente Guarda, uso Scalfari, quando ha compiuto 90 anni ha detto: quando si è vecchi si può dire tutto quello che si vuole, diciamolo, non però cambierà nulla, ma almeno si è contenti. Allora, tu mi hai chiesto quanto voglio vivere ancora. Io sto lavorando, sono con voi. Vabbè, allora? Vi ascolto, mi diverto, mi impantano nei problemi della vita. Però vedi, c'è una cosa che mi diverte. Ad esempio, una volta, quando mi hanno scambiato la foto di Saddam Hussein, ci hanno messo invece quella di Berlusconi, io ho detto: ma che figura di merda! Ebbene, quel che figura di merda, ormai è diventata una sorta di rap. Ah no, con voi anche, che mi sono incavolato una volta, allora, lasciamo perdere le parole. Nelle discoteche, però, sì, è diventato una canzone. Vabbè, ma allora che vuoi dire con questo? No, voglio dire che resta un qualche cosa di tutto ciò che facciamo nella vita. Però non facciamo filosofia, Emilio. Io voglio sapere una cosa da te. Veramente senza Berlusconi voteresti Renzi? Cioè, lui è molto simile a Berlusconi, diciamolo. Guarda, io sono sincero, non saprei per chi votare. Vabbè, prima hai detto che voteresti Renzi, adesso guarda, ti devi dire non adesso io certo non ho motivi in questo momento, specialmente in questa vigilia, di dire: ah, Berlusconi vita mia. Però no, anzi, assolutamente, ti ha abbandonato, votare per Berlusconi. Ti ha abbandonato. Ma sì, perché sono 24 anni, uno andasse a posto tu alla Zanzara, io lo accetterei. No, perché tu sei mio amico, io ti voglio bene e siamo stati... Ti ha abbandonato, dai. Penso, oramai fa il divo, è sempre libero. Ma sono qui, mannaggia te, mannaggia te. Però Berlusconi ti ha abbandonato, dai. Ti ha abbandonato Berlusconi, dai. Io non credo, anzi, per quel che... Ma leggete lo sto libro, ti posso dire... Ma no, ma ti ha abbandonato, oggi ti ha abbandonato, o no? Oggi Berlusconi ti ha abbandonato. Ma cioè... come fa a parlare con me? Domani c'è la sentenza della Cassazione che fa due coimputati... Ho capito, ma ti ha abbandonato, ti ha lasciato senza un euro, dai, su! Beh, devo essere, perché sia chiaro a tutti, io non ho un euro nascosto da nessuna parte. Io non ho avuto un euro di premi di cose. Sì, ma hai la pensione, per fortuna, no? Io sono non solo la mia hai pensione, la pensione, però la mia pensione è sotto sequestro, un quinto della pensione quinto, è stato messo sotto sequestro da un'avvocatessa che me lo lascia perdere. Sì, lo so, cioè, dire assolutamente, questa è la verità. Cioè, il tuo conto in banca in questo momento, se tu vai a vedere il conto in banca, quanti conti hai in banca? No, ma io ho un conto sotto sequestro di quella gentildonna che mi ha messo sotto sequestro tutto, perché ma ho capito, ma quanto hai in banca? Perdere, quanto hai in banca? Sai che è importante, credo che faccia bene a tutti quanti ogni tanto, guardandosi attorno, dire: ma che figura di merda. Ma quanto hai in banca? In banca non c'ho niente che sotto sequestro. Vabbè, ho capito, ma tu i soldi sotto sequestro quanti sono? Cioè, saranno, lei ha fatto una cosa enorme. Ne hanno trovati 40-42 mila. 40-42? Sì, vabbè, voglio dire. Cioè, in tasca tu, come vai? Come campi? Campo con la pensione e con qualche risparmio. Cazzo, 60 anni di giornalismo, ma che dovevo andare? E vendite una casa, no? Venditi una casa che hai, dai, su. Io vorrei vendere la casa che mi sono comprato col mio lavoro e non lavorando con Berlusconi in corso plebisciti a Milano, non riesco a venderla. Non riesco a vendere, io sono qua nella casa. Vabbè, non sei un morto di fame, non sei tu ogni volta pagandomi l'affitto, signori, pagandomi l'affitto, ma è normale. Sono ben contento. Vabbè, ho capito, ma di pensione prendi una cifra ottima. Quale? La pensione è sotto sequestro, però è sotto sequestro. Ma un quinto, dai, su, un quinto, il dai. Il quinto dell'assessore è sotto sequestro. Sei, toglici il quinto, quanto rimane? Vabbè, quanto rimane? 4.500. Altra cosa che voglio dire, il mio libro. Che si conclude con un appello d'amore a Napoli, non soltanto... Vabbè, aspetta con Napoli, io voglio capire, hai visto che hanno litigato la Pascale e la sua assistente? No, ho letto, come avete detto... Pare che abbiano litigato, in un centro... Ma la Pascale, secondo te, come finirà la storia con Berlusconi e la Pascale? Si sposeranno, forse. Storia di Berlusconi con la Pascale, come finirà? Questa è una domanda assolutamente, è bellissima, intelligente, ma è marzulliana. È normale. Non lo so, io conoscevo molto bene... certamente Francesca, la siamo frequentati. Ma com'è? Conosco Rosaria, cioè, quando sento parlare del cerchio magico e penso a Rosaria Rossi, che è una donna intelligente, in gamba, che non è vero, poi tutte queste cose. Ma che rapporto c'è tra la Pascale e l'Ardesi, secondo me? Che rapporto c'è tra la signora Pascale e l'Ardesi? Ma io qua l'Ardesi, devo dire, l'ho vista poche volte, addirittura Francesca mi aveva detto che l'Ardesi aveva un debole per me e non l'ho visto. Ma no, dai, su questa cosa, ma fatemi dire una cosa. Aspetta, che c'è la pubblicità. C'è la pubblicità, adesso torniamo, dai. Che non ce la faccio, io non vi sopporto, è un programma brutto, è brutto. La Zanzara. Allora, Allora, il ritorno di Emilio Fede alla Zanzara, uno dei più grandi giornalisti italiani, credo di tutti i tempi, caro Parenzo, bisogna dirlo. Emilio, di la verità, ti senti uno dei più grandi giornalisti italiani? No, io mi sento un giornalista vero. Meglio di Vespa, meglio di Vespa. Vespa chi? Oh, Vespa. Ah, Vespa parli, no, perché c'è Bruno l'animale, Vespa, sì, no, l'animale. Bruno Vespa, no, sì. Ma Bruno è bravo nel suo genere, è un'altra cosa, lui è bravo. Cioè tu sei più sul pezzo, diciamo, no? 4, io parlo di me, tu hai fatto il paragone, era una fallace, quelli sono stati dei grandi giornalisti, io non dico di essere come loro, o peggio di però, loro. Però, insomma, sei stato un grande, diciamo, tra i migliori tre della storia del giornalismo italiano. Ma diciamo, anche più, io sai cosa sono? Cosa? Sono una persona per bene. Vabbè, ma quello vabbè, tutti lo dicono, dai, su. Però sei stato anche un gran lecchino di Berlusconi, diciamo, in senso buono, un gran leccapiedi, si può dire un gran leccapiedi. Ti chiamavano Emilio Fido. Emilio Fido. Sì, certo, fatemi dire una cosa. Dimmi. Il problema è importante nella mia vita aver scoperto quali sono stati i lecchini nei miei confronti, cioè quali hanno mantenuto l'amicizia e quali hanno fatto un voltafaccia vergognoso. Che figura di merda. Chi? Dimmi la verità, chi ha fatto a figura di me? Ma tanti, ma tantissimi. Ma facciamo molti, nomi, eh? Facciamo nomi. Ma no. Oggi ci sono tanti, tu che sei stato, diciamo, il leccapiedi in primis di Berlusconi. Sì. Ma lui ci credeva, ma non oggi, è che... ma credendoci, per carità, quanti sono i lecchini di Renzi? Quanti ne vedi in giro? Oh, mamma mia, aumentano vorticosamente, giorno dopo giorno. Cioè, a confronto, tu eri un novellino, diciamo, tu eri un dilettante, o no? Ecco, guarda, che, dimmi qualcuno, qualche lecchino pazzesco, dai. Ma no, di questi, ma guarda, ma il lecchino inteso per gente che è sparita, se facciamo i nomi poi finisce come tutto, è andato in giro, non voi, va in giro che io ho detto nei confronti, lo sanno bene. Cioè, meglio tu, che ne so, uno che dice al pubblico applaudite il Presidente del Consiglio, è successo a Gianni Riotta recentemente. Beh, c'è un modo e modo. Riotta mi lascia sbalordito, vabbè che io Riotta non riesco a capire, quindi non ho capito proprio tecnicamente quando parla, non lo capisco. Vabbè, come non lo capisci? Non è mica colpa mia, adesso non è che lo sto insultando. Ma chi sono i lecchini di Renzi in assoluto? Cioè quelli proprio che tu, che insomma, che a te ti fanno una pippa, come si dice in gergo. Guarda, lecchini, come dici tu, che a me mi fanno una pippa, ma ce ne sono decine. Decine peggio di me. Decine, perché non voglio mica dire, oggi Parenzo fa quello che fa, Cruciale fa quello che fa, ma il giorno non avessero la rubrica la loro visione, non dica. Io ho scritto al direttore di un autorevole quotidiano, so, lamentandomi di che aveva messo un titolo sulla storia mia, eccetera. Ho detto, ricordati, amico mio, con rispetto, parlo di Ezio Mauro. Ho detto, caro Ezio, ti ringrazio che ti sei fatto quel titolo di così. Però ricordati che quando chiudi la porta e non sei più direttore, nessuno ti caga più. Vabbè, ma quello, vabbè, quello lo sappiamo. Quella è una certezza. Ma non lo sappiamo, però non mi sai dire chi sono i lecchini più grandi di Renzi adesso, i lecchini peggio di te, peggio di quello che tu sei stato con Berlusconi, molto peggio. Ma non lo so, guarda, io quando rivedo che intervistano Renzi, guardo se sono in piedi oppure sono in ginocchio. Vabbè, che dobbiamo fare? Facciamo qualche rivelazione scottante che non hai mai fatto. Per esempio, una cosa curiosa, secondo me, è questa. Ma il libro è già uscito o no? Sì, è uscito. Allora, Milan e Juventus, no? tu sei stato a un certo punto, diciamo la verità, diciamola tutta, tu sei tifoso della Juve. Ero stato, ma certo, un Rai Juventus, quel giornalino. Beh, che mi appunto, sei stato tifoso della Juve. Stavo a Torino, ragazzi, da 20 anni. Eri tifosissimo della Juve. Però mi svelo una cosa e mo si incazza qualcuno. Dimmi. Perché anche Adriano, perché Galliani era juventino. No! Sì, è vero, l'avevo sentito anch'io. Ma veramente stai dicendo? Fratello mio, non ti arrabbiare. Ma veramente era juventino? Ma era già uscito, mi pare di sì. Sì, forse sai. Di sì. Juventino fino al midollo. Io voglio dire, ero juventino, campavo scrivendo le biografie dei calciatori, eccetera, eccetera. A un certo punto, per lecchinaggio, sei passato tifoso del Milan. No, ma tifoso del Milan per merito di Berlusconi. Appunto. Sono tifoso del Milan perché ero molto amico di Adriano, di Galliani, lo sono tutte ancora. Tutte e due siete passati. Siete diventati milanisti per colpa di Berlusconi. No, un merito, perché io sono stato milanista nel periodo bello. No, un merito, una paraculaggine, scusami. Una paraculaggine. No, mi divertivo molto. Vabbè, ho capito, certo, vincevate. Vincevamo, lo so, io mi divertivo. Ma sai, allora, vi dico una cosa. Quando, siccome parliamo sempre soldi, ricordatevi che io tutti i 24 anni che ho lavorato con Berlusconi ho avuto sempre solo e soltanto lo stesso stipendio. Vabbè, e adesso non lo sappiamo questo. Adesso è un morto di fame con Berlusconi, dai, ti ha trattato pure male dal punto di vista economico, dai, tu non dire stupidaggini. Certo, come ti ha trattato male, dai? Come? Sei stato trattato male dal punto di vista economico da Berlusconi? Ma sono stato trattato male. Ma scusa, ma sono stato Berlusconi dall'azienda? Dall'azienda senza un euro. Vabbè, ti hanno cacciato. Ma mica su mandato di Berlusconi, però, scusa. No, io non, guarda, non voglio mai pensarlo. No, per carità, lasciamo perdere. Ma no, sempre lui comanda, però. Sempre lui comanda, però. Mi rifiuto di morire. Però poteva impedirlo. Però poteva impedirlo. Amico, poteva impedirlo e non l'ha fatto. Questo bisogna sempre dirlo. Lo so, io non ho capito una cosa. Galliani della Juventus, come si comportava Galliani Juventino? Era scatenato? No, ma io non ero, cioè, mica lo eravamo nello stesso tempo. Io però era Juventino, che vuol dire? Era scatenato. La Gazzetta del Popolo, sono passato poi alla Rai, ero a Torino ed ero tifoso Juventino. E poi sei diventato del Milan, ma non ti vergogni? Poi per tanti anni ho fatto l'inviato di guerra in Africa. Ma non ti vergogni? No, ma ti vergogni di essere Juventino, ma neanche per sogno. No, di essere diventato del Milan. Una donna X che tu hai molto amato, ti vergogni? Ma scusa, ma Emilio, non si può passare, non si può cambiare squadra, dai. Ma sai, me lo dicono tutti, tutto si può tradire tranne che la squadra, ma figurati. Ma voglio dire, ma Per Berlusconi sei diventato tifoso nemico. Comunque questa cosa per di amore, quindi. Dai, Galliani, per amore. Galliani della Juve, dimmi un episodio, fammi un episodio. No, non lo so che una volta ci siamo confidati quando ho detto, ma è vero, ma anche tu sei, io ero juventino. Ma non c'è niente di male, non si capisce dove è il tradimento. Ma no, vabbè, così è una curiosità, cioè Galliani tifoso della Juve, non me lo immagino, dai. Che quando gioca il Milan, negli ultimi tempi non mi interessa più tanto, ma quando gioca il Milan tifo Milan. Però se vince la Juventus non mi dispiace. Vabbè, ma questa è una paraculata, dai. Su, non è una paraculata. Una paraculata. Che me ne frega, ma scusa, ma io non vado. Sai che non sono andato. Un coro. A vedere la Juve per non fare quello. Dice, eccolo qua, da milanista adesso va in tribuna. Se mi mettono in tribuna, se mi mettono negli ultras. Ci vai ancora allo stadio, sì. Come? Ma no, non ci vai allo stadio. No. Al Milan ho restituito la tessera, ovviamente, messo fuori, ho preso la tessera, ringraziando. Vabbè, poi. Tanto me l'avrebbero portata via. Anche quella. Dove mi invitano spesso, io non sono mai andato, perché l'idea di Fede in tribuna bianconera sarebbe stato, ecco, vedi, prima era di qua, ora è di là, quindi niente. Ma t'avrebbero preso a sputi dalla Juve. Se ti ripresenti allo stadio con la Juve, ti prendi... Mi tratterebbero benissimo. Bah. Ti assicuro... Senti, tu hai mai preso Viagra o Cialis? No, ma che, me l'hanno offerto uno giorni fa che non era né Viagra né Cialis, ma che ci faccio? Tanto oramai nessuno me la dà, e se me la danno che ne farei? Niente. Ma come no, me lo sapresti come trattare una donna, dai, pure tu. Guarda, so dai. Che fa ridere e lo so che... Da quant'è che non fai sesso? Da quant'è che non fai sesso? Ma io una donna straordinaria che mi ha sopportato. Sì, ma da quanto tempo è che non fai sesso adesso? Aspetto fare il calcolo. Se mi chiamate la prossima volta, intanto prendo. No, devi andare indietro nel tempo. Dimmi da quanto tempo è che non fai sesso. Non lo so, no, questo veramente non me lo ricordo. Non lo so, 2 anni, 1 anno? Sì, più o meno. No, più o meno. 4, 5, 6. Ma dai, ma non lo sai. Ma non credo che gliene frega niente alla gente. Ma sì, interessa. Faccio una parentesi seria. Dimmi. Tu hai parlato di insulti. Sai che io ho ricevuto in 4 giorni 1.400. C'è un gruppo, c'è una nascita di gruppi che fanno una violenza. I giovani che è pazzesca. Ma perché? Che fanno? Che fanno questi ma qua? No, mandano in giro messaggi che non si possono neanche riferire. Su di te, che dicono? Che dicono? Quindi contagiando quella parte della giovinezza. Della ma gioventù. Che dicono? Ma cosa terribile? Guarda, terribile. Che dicono? Ma ti telefonano anche? Ti telefonano? Ancora? Ti telefonano ancora? Sì, ma qualcuno, sì, no, devo dire che è nato un Emilio fan club. Ma c'è una, ci sono dei gruppi, non so come cavolo si chiamano, all'interno ci sono delle cose diverse, ho dato a denunciare alla polizia postale. Ma che denuncia, ma che te frega di denunciare, ma basta, dai. Ma non contro di me, in generale, coinvolgendo, ma guarda, ti assicuro, una cosa bruttissima. Comunque non è questo il problema, comunque problema sai che adesso mi sta chiamando Moggi, che tu conosci Luciano? È un mio amico. Mi sta chiamando Moggi che dice che ti vuole un po' rimproverare per questa cosa del tuo passaggio dal Milan alla Juventus. Aspetta un attimo, mando la pubblicità e poi ti richiamo. Aspetto, è Luciano che vuole parlare con te, aspetta. Non vi abbandonerò mai. La Zanzara. Emilio, ci sei? Come no, chi va via? Aspetta che non riesco a chiamare, mi era caduta la linea. Sì. Mi chiamate Luciano, cazzo, dai, regia! Forza, possibile, ogni volta! Ecco, vedi, sei l'Emilio Fede della notizia. Eh no, che cazzo, ogni volta cade la linea, c'era linea Luciano, dai, riproviamo, dai! Comunque, volevo aspetta. Dire una cosa dimmi. Quando si parla di affetti. Io, 24 anni, a Mediaset, ho solo dato e ricevuto affetto. Sì, quindi, vabbè, affa, ma sti cazzi, aspetta, aspetta un attimo che ci abbiamo, sennò cade di nuovo la linea. Luciano, che vuole? Ciao. Eccoci. Ciao, ciao, ciao, ciao. Buonasera, ogni tanto vi ascolto, siete dei disgraziati. Saluta Emilio intanto, dai. Emilio, cosa mi combini? Che ho fatto, Luciano? Emilio, non si fanno queste cose. Quali? Ma che ha fatto? Non si cambia squadra, non si cambia casacca in questo modo. Ma mi è deluso molto. Ma come, ma come, ho appena finito di elogiare la Juventus, ma cosa dici? Che non mi avete mai invitato, nessuno mi ha mai invitato a vedere la partita. Ma mi sa che se adesso arrivi allo stadio della Juventus non è che ti accolgono molto bene dopo quello che hai detto. Però hai detto una cosa giusta, è una cosa vera. Galliani era della Juventus. E questo lo posso confermare. Per come non quello che ho detto? Perché ho insultato la Juventus? Ma cosa dici? Campavo. Ma non è un insulto, Emilio. Però cambiare in questo modo non è mica bello. Però ti do atto. Però ti do atto. Luciano, che... cosa dici? No, io dico le cose giuste. No, intanto ha detto una cosa, Luciano. Stai confermando che Galliani era della Juve, giusto? Tu lo sai bene, no, Luciano? Ma sì, certo, ma questo lo sanno pure i passeri sui tetti, non è una novità. Cioè, per me Emilio, da questo punto di vista, non ha detto nulla di nuovo. Il fatto è che è passato dalla Juventus. Ma questo pure Milan. È una e questo non va bene, e questa è una cosa brutta. Vabbè, ma questo io si sapeva. Rimasto... No, lasciami parlare, ma io sono rimasto sapeva. Juventino tutta la vita, io sono Juventino. Emilio, non si fa così. Oh, Luciano, ma non so che hai bevuto stasera. Ma perché dici che ha bevuto, scusami? Ma adesso non andiamo sul pesante, bevuto Emilio, no. Però io ti dico un'altra cosa, perché io, perché io a differenza tua ti dico anche le cose belle. Ma perché sei così incazzato, Luciano, scusami? Ma non va bene, io sono qui che combatto per la Juventus tutta una vita e avete visto cosa mi è successo con la giustizia sportiva. Non parlare di giustizia, Emilio. Allora, da questo punto di vista, Emilio, io ti sono solidale. Ah, e ecco, ti esprimo male, la mia, perché quello. Ho capito. Che avete in comune? Condanne, cose, un casino? Sì, beh, direi. Ma tu come consideri Moggi, Emilio? Diglielo in faccia, come lo consideri, Luciano? Ho sempre detto che è una bravissima persona. Adesso sì? Non so se sta dando i numeri. No, perché Lotto. I numeri? No, perché i numeri all'otto? No, no, perché... Ma scusa, perché io e lui siamo amicissimi. Appunto. Siamo sempre voluti bene. Vabbè, ma adesso ho sentito. Voglio bene, no, aspetta, sentilo, sentilo. Spazio sempre con la mia certezza della sua innocenza, capito? Io sono un garantista vero. Io oggi sono davanti alla giustizia, mi fido della giustizia. Però senti un attimo che ti dice Luciano. Ma Luciano, guarda che prova per te grande affetto, credo. Appunto, giusto? Giusto, Luciano, dire. Luciano. Ma io ti voglio bene, Emilio, ti voglio bene. Comunque ricordati, fidarsi è bene, ma non fidarsi praticamente è meglio. Ha capito cosa vuoi dire. E quindi bisogna andarci però, con però scusa, avete in comune, Luciano, avete in comune pure la grande passione per le donne. Pure tu sei, no? Anche tu sei. Beh, anche tu sei. Ecco, però a differenza di Emilio io ci do dentro ancora. Questo lo dobbiamo dire. Questo... Non voglio caro avere Luciano, cose similitudini. Questa è propaganda, caro. Lui si caro propone, Moggi. Si propone. Però voglio dire, Luciano, allora ci siamo visti in qualche ristorante. Sì, a Milano, no? Sì, a Milano. Sì. Certo. A Salumiere ci siamo visti qualche volta al Salumiere. Sì. Bravo, esatto, ricordo. E allora, mi avete detto, Emilio, vieni, ti aspettiamo. Mi avete mai invitato? Ma questa ormai non conta più un cazzo, Moggi. Cioè, no, ma qua, non è vero. Ma prima... No, non ho capito, Cruciani. Adesso ti ci metti pure te. No, ma non conta più non cazzo nella Juve di adesso. Nella Juve di adesso. Io faccio anche una cortesia, chiamo in trasmissione. No, scusa, hai ragione, ti ma ringrazio. Cosa fa io chiamo, adesso? Saluto Emilio, gli dico che però non deve cambiare casacca. Ma ormai l'ha già fatto. Sfudorato. Ma l'ha già fatto un sacco di tempo fa, è una cosa accinota. Ma non doveva dirlo, l'ha già detto mille volte. Dai, su, non è mica una novità. Comunque quella di Cagliari è vera, dai, confermo. Senti, confermo, vabbè, conferma. Io ho detto prima che quando sono milanese quando è però simpatico. Oh Luciano, basta, è ora che mi inviti a Torino e vediamo se mi fischiano se vado a Torino. Ma che c'è, ma Luciano ormai non è più nella Juventus, cioè non ti puoi invitare da nessuna parte, lo voglio vedere lontano. Ma scusa Emilio, ma perché non mi inviti tu a cena? Cena, che devo vuoi, invitarti io. Cerca di tirare fuori sti soldi, non è vero che non ne hai più. Li hai, una bella cenetta qua a Milano. Una bella cenetta. Volentieri, scegli tu e ti invito a cena. Vabbè, facciamo così, perché che bella compagnia. Vabbè, comunque, tutte e due innocenti, mi sembra. Vi sentite tutte e due innocenti, Luciano? No, io lo sono. Tu lo sei, ma vabbè. Ma che cazzo stai a dire? Certo che lo sono. E tu invece, Emilio? Guarda, Io, quel libro ha un valore. Sì. È un appello, io l'ho scritto un a appello, chi sì. sa perché parli, sì. dica quel che sa. perché la mia volontà finale, qual è? Quello che io devo alla mia famiglia soprattutto, sì? E si stabilisca che io non ho ricattato, non ho rubato, vabbè, non ho avuto sta valigetta, niente. Chi l'ha portata finalmente? Sta valigetta, chi è il burattinaio della valigetta con i soldi che non ci sono in non Svizzera? È una, no, ma chi, scusa, chi l'ha organizzata quella roba? Diciamolo, diciamolo! Chi l'ha organizzata quella roba? Ma scusa, ma si sa, è lì, l'hanno, si ha pure patteggiato già, ma questo galeotto, ma insomma io è possibile che debba essere messa a ma perché non hai chiamato Luciano per farti aiutare in tutte queste cose, che è un esperto di queste cose qui? Luciano, ma per favore, dammi una mano. Qua bisogna bacchettare Cruciani. Va bene, ragazzi, qua, salutatevi, no, mi avete, no, rotto, diciamolo. Mi avete rotto, mi avete rotto. Allora, voglio dire una cosa. Abbraccia, saluta Luciano. Emilio, sono con te. Ecco, bravo, voglio dire una cosa. Questo mio libro, una parte del ricavato, non sarà tanto, io l'ho destinato ad alcune famiglie povere di Napoli. Vabbè, questo, vabbè. Certo. Ma certo. Questo, vabbè, vedremo quanto ricaverai. Per me non ce fai in euro questo libro. No, no, certo, vuoi che lo compri. Ma che cazzo? Però compratelo. Ma che cazzo se lo compri? 12 euro, 10, 12. Tu lo compri, Luciano, mi sa che non lo compri te, Luciano. No, me lo deve mandare Emilio, autografato. Tutto gratis. Allora, sempre. Luciano, me lo devi mandare. Te lo mando con una fotografia mentre io sto intervistando. Dilli di cantare l'inno della Juve, se lo sa, Luciano. Chiedigli di cantare l'inno della Juve. Assolutamente sì, perché adesso questa la devi fare. Com'è? Allora, se vuoi che ci lasciamo. Juve, storia di un grande amore. La sai, Emilio? Storia di un grande amore che forse non passerà più. Mentre io amo un Milan che nasce e che procede su una strada ancora incerta. Cioè, tu sai solo. Ma tu e chissà che cosa sarà. E poi dice che ho bevuto io. Come? Ma lo sai quello del Milan o no? Milan. Ma ragazzi, non sempre non partecipo più alla zanzara. Vabbè. Facciamo il coro alla zanzara. Dai, comunque Luciano, sono contento di averti sentito. Vabbè. Ma io vengo a Torino a presentare il mio libro. Vabbè, il video ufficialmente. Ma mi devi dire quando? Te lo dico, il 29 settembre. Vabbè, allora ciao ragazzi, fermi traffico, ciao. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele, vabbè. La zanzara. Andiamo con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Gisella, Roma, vai. Eccomi, mi senti? Dimmi. Allora, senti, io sono proprio una dipendente dell'archeologico di Roma. Sì. Oh, e... meno male, bene, vai. Bene. È quello che volevo dire. Vabbè, sì. Tanto si parla sempre di sciopero. Che era no, era un'assemblea, una riunione, sì. Comunicata due giorni, sì, prima, come si deve, no? E poi non era per lo straordinario. Nessuno fa un'assemblea per lo straordinario. L'assemblea era fatta perché è una parte del salario che è mancante. Perché quando si parla di turni, di notte, sì, di aperture straordinarie, sì, cose cui, normali per i cose normali per i custodi dei musei, eh? Non è che si sta parlando, cioè non sono, se non sono pagati, non è normale, e sui compensi loro contano. Sì, per, no? Carità, non sto dicendo. Ma è nulla. Una bella parte consistente. Io non so quanta parte consistente. Comunque, la cosa sicura, la cosa certa al 100% è che nella stessa situazione, nel ritardo di pagamenti di straordinari, ci sono un sacco di dipendenti della pubblica amministrazione, perché purtroppo è la natura di questo Stato italiano, male, quello di pagare il ritardo. Non solo allora, dipendenti. Ma non si può gettare la croce addosso a io questi. Io sto qui. Dicendo semplicemente che non si chiude il Colosseo. Punto e basta. Ma no, si pagano per gli stipendi, ragione, non si chiude il Colosseo. Non ma che si chiude sono? Il Colosseo, Gisella. Ma te se non ti pagano vai in onda, Gisella, lo stesso, che non puoi aggiungere, dimmi. Ma te se non ti pagano vai in onda. Non è servizio pubblico fondamentale. Ma che c'entra? Gisella, dimmi. Ma oh, è c'entra, uguale, c'entra. Se sempre soldi sono, amico c'entra. Mio. Oh. Gisella, ma dimmi. Non c'entra proprio niente. Scusami. Voi vi rendete conto che è una cosa grave fare un decreto per impedire alla ma gente, certo, di protestare perché non prende, no, il decreto soldi. È ridicolo, cosa... perché non cambierà quasi nulla, quello ma è ridicolo. Stiamo per diventando, quello, cioè dobbiamo diventare tutti servi, stiamo diventando, ma così. Non c'entra niente, sì, dai, sì, su, c'entra, non c'entra, c'entra nulla, assolutamente è una nulla, cosa Gisella. Molto grave. Ma oggi è grave, è noi, grave chiudere il Colosseo. Domani può toccare a ma te, esatto, chiunque a ti può venire a ledere i tuoi diritti e dirti che comunque per il bene dell'Italia l'Italia per il ma bene. È pieno di usceri, è pieno di custodi che fanno altre cose, dai, che si imboscano dappertutto. Ma non c'entra nulla. Ma guarda, no, intanto i custodi lo sapete, lo che denunciano pure i sindacalisti. Guarda. Ma chi c'entra? Lo sai che sono 10-12 custodi a turno a fronte delle migliaia di visitatori? Se uno non perché fa bene il lavoro, si imboscano, viene sanzionato. Questo. Ma chi c'entra? No, perché non ci sono. Non ci sono perché molti si imboscano. Questo ma è il punto. Sono anni e anni, ma tantissimi anni che non vengono più assunti custodi. Guarda, per me il coso, il Colosseo va amministrato da privati, figure come la penso io. Carlo provincia. Guarda che forse il progetto di non farlo funzionare, basta che vengano pagati i lavoratori, magari. Carlo provincia di Roma. Sì, anch'io sono un dipendente dei beni culturali, un semplice custode. Perciò il problema non è soltanto dei custodi, le cose, tutto. Qui c'è la mancanza di personale. Sì. Noi adesso nel pubblico manca il personale. Siamo arrivati al paradosso che manca il personale. Parliamo uno per volta oppure io chiudo perché non me ne frega niente. Dimmi. Sta dando delle notizie false. Ma quali? Io non sto dando nessuna notizia, dai. No, lei non sa il problema. Nel senso, non è che manca il personale, non stanno assumendo il turnover. Noi custodi, io le parlo per il mio sito, io sono la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Noi arriviamo in quattro. Amico mio, il problema è che purtroppo è che ci sono troppi imboscati nello Stato è pieno di imboscati, pieno. Però voglio fare un altro inciso, un altro discorso, sempre su e probabilmente anche pochi specializzati, per carità. Allora, questo qui dipende sempre dalla direzione, perché ci dovrebbe è normale che corsi di inglese, di cose, tutto, per poter essere pronti verso l'amministrazione, perché se noi corsi di inglese ci dobbiamo imparare a noi, dobbiamo fare tutte cose nostre, perché cosa per l'amministrazione. Però voglio dire una cosa sull'assemblea. Allora, noi siamo H24, ovvero sia, facciamo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte. Allora, io quando mi devo riunire? Sì. Non lo so, a me i dettagli non mi interessano, no? Non si chiude il Colosseo e non si chiudono i fori, punto. Ma i lavoratori si pagano. No. Tra parentesi, allora, questi benedetti emolumenti, noi stiamo lavorando da più di un anno senza rendere lo ma soldi. Certo. Ma vabbè, caro, Alessandro da Roma, dai, Alessandro da Roma. Pagato. Alessandro da Roma. Buonasera a tutti. Mamma mia, ragazzi. È un'ora che aspetto qui. Dimmi. No, io volevo porre il problema, insomma, rimanendo nella nostra città Roma, il problema del degrado morale. Che vuol dire il degrado morale, amico mio? Il degrado morale, che vuol dire il degrado morale? Il degrado morale in una città non c'entra niente. Il degrado morale che Degrado morale dell'amministrazione che governa questa città, quindi partendo dal sindaco a tutta la giunta e a tutto quello che ruota intorno. Ecco, poi, volevo porre questo come problema. Degrado morale, va bene. Principale, il degrado e il decoro e i problemi organizzativi di manutenzione. A proposito del sindaco, città. Si è presentato oggi in un posto a Roma. C'erano dei contestatori, credo, di Fratelli d'Italia e ha risposto in questo modo, Marino. E ringraziamo anche i cittadini che sono sulla sinistra, che con il simbolo di Fratelli d'Italia sono venuti a ricordarci che quando governavano loro i soldi finivano nelle tangenti e qui per 5 anni non si è fatto nulla. Grazie dunque a esserci venuti a ricordare che il partito della Meloni aveva il sindaco Alemanno indagato per associazione mafiosa. Grazie per esserci venuto a ricordare che rappresentate la mafia. Angelo da Varese, dai. Angelo, dimmi. Allora, questi qua sono soltanto dei miserabili, tanto per essere chiari, perché vorrei far capire a Parenzo che un conto è l'assemblea, un conto sono i permessi sindacali e un altro conto è lo sciopero. Se questi avevano qualcosa da rivendicare sugli straordinari costruiti per farsi per aumentarsi lo stipendio, questo qua fanno 3 ore di sciopero, se invece fanno l'assemblea vengono retribuiti lo stesso. Vengono retribuiti. Cosa c'entra? Allora abolite il diritto di assemblea, ma che non c'entra proprio nulla. Privata, taci parezzo. Io senti, se non mi pagano non vado a lavorare, hai capito? Se no è protesto soprattutto. Allora i ricchi di famiglia non protestano e se ne fottono se non vengono pagati. Un lavoratore deve essere pagato per il lavoro che fa. Se poi non lavora bene va a casa. Questo è il punto nei paesi civili. Ascolta e ti spiego. Ma non c'è nessun torto, ascolta, qua c'è un fatto. Ascolta, lavoratori non pagati lo fai parlare o no? Di fallo parlare per decidere che fare. Fallo parlare. Fine della storia. Ascoltami Parenzo, lascia parlare, che tu dopo c'hai tutta la trasmissione anche di domani o dopo. Non si può che in un'assemblea dove tu ti fai pagare dal datore di lavoro gli crei un danno. Non puoi. A questo l'assemblea punto, è un diritto, ecco, se vuoi la cambiate, sì, se volete. Perché è previsto appunto. Gli dai un diritto e allora cosa fai sovrintendente in un'azienda privata dove non deve avere i danni perché ti pago, la... gli manda un terzo delle persone dalle 8 alle 10, un terzo le manda dalle 10 a mezzogiorno, vabbè, questo non l'ha fatto un terzo le manda da mezzogiorno alle 2, oppure li può mandare un terzo perché appunto ti pago, perché ti pago al lunedì, un terzo dei due li mando al martedì. Va bene Angelo, ho capito, però quello non è colpa, l'organizzazione non è colpa evidentemente dei lavoratori, evidentemente c'è chi non ha saputo fare il suo mestiere, ma nello stesso tempo è anche difficile organizzare i turni perché quelli avevano congegnato tutto in modo da comunque da bloccare perché avevano, nel comunicato hanno scritto il Colosseo resterà chiuso. Fermi. Attento al DDT, sai. La Zanzara. In quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere? E chi vorreste essere state? Bene, Alice, prego, visto che sei la prima qui. È nel 42, 1942, per durante la Seconda Guerra Mondiale? Nel senso l'anno, va bene, poi c'è una motivazione pure a tutto ciò. Sì, per vedere realmente la Seconda Guerra Mondiale, visto che i libri parlano pagine e pagine, la volevo vivere, però tanto sono donna, quindi il militare non l'avrei fatto, sarei stata a casa con la paura di... Capito Simone, siamo passati da vorrei la pace nel mondo a vorrei vivere la guerra, Miss Italia. E a proposito di Vladimir Luxuria... Beh, io direi che possiamo risentire tranquillamente l'elogio del prenderlo in quel posto. Se usano questo linguaggio così violento nei nostri confronti, trebbiare i gay ai gay pride, mette questo il culo all'aria, chissà come ti risvegli, vuol dire che gratta, gratta, gratta e vinci, hanno qualche problema irrisolto. Prendetelo nel culo che vi si allarga la mente, cari. Se uno è etero e gli piacciono le donne, gli piace la fica, ecco, così ci capiamo anche proprio, no, pane pane vino al vino, ma che cazzo gliene frega di chi c'ha un gusto diverso? Che cosa gli toglie? Il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti, vai Parenzo. Servi di Roma, guarda fuori, di Orban, lo troverai ben costruito. Il filo spinato lo fanno in Spagna, ma lo monta Orban, non Salvini. Guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di accecarti. Fai vedere le tue braccia possenti a chi ti vuol fermare. Poi? Salve Padania. Ascoltatore, vai. È bella la tua terra. Ci sono i più idioti che continuano a votare, perché non se li portano a casa? Uno per ogni casa, ogni ogni famiglia che vota il PD ci porta a casa un grande spino. Ma ti dico, te lo proponeva il venerdì di Repubblica, venerdì scorso in copertina c'era proprio scritto un siriano in tinello, indovina chi viene a cena, e quindi ti propone dichiaratamente di adottare un siriano. No, che se lo adottino loro, quei coglioni, che adesso ne abbiamo piene le scatole. Servi di Roma fuori. Praticamente stanno facendo una sostituzione di popolo, perché grazie a quella culo a Merkel, e guarda caso, così concludo, ci sono anche i nostri amici greci che l'hanno preso di nuovo nel momolo. La Lega è al 14%. Sentite questo, Parenzo, questo è interessante. Secondo i sondaggi è al 14-15%. Senti questo. Secondo lui? Beh no, secondo i sondaggi è al 14-15%. Ma senti questo ascoltatore. Poi ho sentito quella Virago prima, che voi chiamate presidente della Camera. Forse la Virago spero di trovare qualche superdotato che la faccia divertire. Ma quali sono problemi suoi? Perché rivoltarli su di noi? Libertà! Ma che porcheria, ma questa è l'amica della radio, quella. Servi di Roma fuori! Cioè, questo qua dice che la Virago Boldrini spera di trovare tra i profughi un superdotato che la faccia divertire. Ma è il fatto che non c'è nessuna sanzione per questa gente. Ma certo, uno, ma che sanzione vuoi che ci sia? Dai. Cioè, uno può offendere liberamente la Boldrini dignità. Se la Boldrini vuole. Ma il punto non è razzismo, è offendere la dignità delle persone, capito? Ma cioè, smettila, uno può, dai, offendere. Su. È Radio Padania, dai, Radio ma Padania. Ma non è che tutto è giustificato. Se uno offende la dignità delle persone, lascia star razzismo, destra, sinistra. Senti Varin, è una senti radio Varin. Che offende la dignità delle persone. Senti Varin. Ma mi fa vomitare. Fanno bodybuilding, sono degli istruttori di palestra, ce ne sono alcuni muscolosi, grandi e grossi, che la faccia da profugo non ce l'hanno neanche lontana. Io mi chiedo, ma dove sono i negretti, quelli magrissimi che vediamo morire di fame in Africa? Bella e libera, guarda. Era il peggio di Radio Padania. Non c'è mai fine al peggio. Oltre i monti, non permettere al tiranno di accecarti. Fai vedere le tue braccia. A proposito, sai qual è la canzone che va più di moda a Radio Padania? La canzone si chiama Carabiniere Spara. Carabiniere Spara, te la faccio sentire, senti. Spiegami cosa ci fa un uomo con un macete in mano. Cabobo. Nessuno che lo può fermare, nessuno che gli può sparare. Carabiniere che ha scelto di non sparare. Tanto onore a te, tanto onore a te. Ma no, rivoglio la mia Italia. Rivoglio aria sana, una città libera. Carabiniere spara, fagli capire che non c'è più tempo. Carabiniere spara. Capito, Parenzo? Questa è gente pericolosa comunque. Addirittura mettono in musica un fatto di cronaca. È gente bestiale ormai, che ha toccato il livello più basso. Sono più buie, non sono più sicure. Allora, l'altra settimana Vittorio Feltri ha confessato di avere nel suo studio un enorme busto. Un busto, in realtà un faccione di Mussolini in bronzo, che gli è stato regalato da un ristoratore. Uno dei più grandi collezionisti in Italia e rivenditori anche di cimeli mussoliniani, nazisti, abita a Parma, si chiama Aldo Dessi. Ciao Aldo, buonasera. Ciao, buonasera ragazzi, buonasera. Come andiamo? Bene, adesso non sono il più grande. Comunque, uno dei più grandi, mi dicono che sei uno dei più grandi, dai. L'ultimo dei grandi. Senti un po' Aldo, ma qual è il fascista, pezzo? No? Ma è come un no? Fascistissimo, ma Aldo, sei fascista? Scusa? Sei fascista, dice Parenzo, chiede Parenzo? Ma Parenzo fa delle domande che sono inopportune se dobbiamo parlare. No, inopportune mai. Inopportune io mai. Sono quello che sono. No, però si risponde. Alle domande si risponde sempre. Se è un fascista può dire tranquillamente, secondo me tranquillamente no, ma insomma mettere il suo. Vabbè, rispondi, sei una persona schietta, tu Aldo, rispondi. Io diciamo che sono stato anche eletto nelle liste del Movimento Sociale Italiano. Vabbè, quello che vuol dire. Okay. Vabbè, quella roba lì. Oggi ti dichiari fascista? Poi passiamo ai cosi, poi passiamo ai... Guarda, se dobbiamo fare una discussione se sono fascista o non sono fascista, no, chiudiamo no. immediatamente la comunicazione. Ma no, se vogliamo parlare di collezionismo... Ma no, adesso non è che viene qui a piazzare quei quattro cimeli lì aspetta, fortuna passata. Aspetta, qual è il pezzo più richiesto del periodo fascista? Ma guarda, non c'è un petto il più picale. Richiesto, il collezionismo varia, parte dagli inizi dell'Ottocento con il Risorgimento. Sì, no, d'accordo, italiano, ma il pezzo oggi, il pezzo oggi mussoliniano che vale di più, qual è quello più ricercato? Sì, dal distintivo del PNF, alla testa al bronzo del Duce, alla tessera della Repubblica Sociale, ai distintivi della Repubblica Sociale, cioè diciamo che... C'è un busto, il pitale del Duce magari, no? No, non so se usasse un pitale. Sicuramente usava il pitale del Duce. Ma senti un attimo, un busto quanto costa quello che è più caro, diciamo, quello più prezioso? Busti originali del periodo si possono trovare in materiale dei più vari. Diciamo che un busto di qualità firmato in bronzo può costare dai 2 ai 4, 5 mila euro, a seconda più o meno delle dimensioni, e da vari artisti. E tu il pezzo più prezioso che hai qual è? Il pezzo più prezioso che ho non è apertamente fascista, ho tante cose che hanno valori che possono oscillare dai 20 euro a qualche migliaio, però in massimo al momento il pezzo più importante che ho non è del periodo fascista. E i pezzi nazisti quanto valgono nel periodo nazista? Allora, il materiale nazionalsocialista anche lì varia da 10, 15, 20 euro per dei distintivi dei Winterhill a alcune decine di migliaia di euro per cose più importanti. E tipo? Ah beh, copricapo delle Waffen SS, copricapo delle Allgemeine SS, oppure... Quanto costano questi qua? Se parliamo di materiale originale con garanzia e provenienza e certificazione, un berretto dell'SS può valere anche 2.000, 5.000, 3.000. Ma chi è che si compra oggi? Un idiota, solo un idiota può comprarselo una roba del nazismo. Ma perché? Se non per far defecare il cane. Se vogliamo parlare di mercato, di cose possiamo parlare. Se dobbiamo accettare delle così, no, ma quella roba là sta, no, però scusa, quella roba lì starà in un museo, no? Se mai uno va in un museo e vede la drammaticità di quella storia, vede. Se uno se lo compra a casa, se lo userà per uno non si può comprare un berretto del nazista, non ho capito. Secondo me deve stare in un museo, perché ha un senso in un museo in cui uno racconta la drammatica storia. Ma perché uno a casa non se lo può comprare, non ho capito. Se uno se lo compra a casa è un malato di mente per me, però voglio dire, poi se lo può comprare. Le voglio far presente. Uno compra una roba del nazismo è un malato di mente, però negli anni 30 viene fatto un effigio del Duce, l'effigio del Duce che viene comunemente chiamato il continuo o il perpetuo da uno scultore futurista. Questa scultura praticamente è una forma circolare e da un qualsiasi lato uno lo veda, vede il profilo del Duce. Va bene, benissimo. Bellissimo. Questa scultura è esposta in uno dei più importanti musei mondiali trova a Londra. Perché arte può essere discutibile, non c'è dubbio, se infatti ho detto, non è fascista, ma rimaniamo ho detto, nel contesto benissimo. Di quello che possono essere. Ho detto se uno si compra una divisa, ecco. Non mi sognerei mai di dire Marinetti, grande futurista, non mi sognerei mai di dire vabbè, ci sono ragazzi, delle cose che hanno fatto la storia di questo però, paese, ma uno che si compra una divisa del nazismo, una divisa, io lo vedo nei musei della Shoah, la divisa del nazismo. Tu ce l'hai una divisa? Se uno se la compra è un malato di mente, secondo me, perché però per carità. Tu ce l'hai una divisa nazista? Con passione anche per i malati. Ma io le ho avute e le ho comprate, vendute nel tempo. Non penso che nessuno dei miei clienti si sia messo una delle uniformi per... Quanto costa una divisa originale? Migliaia di euro costerà. Ma una divisa originale, anche lì bisogna definire... Vabbè, una originale... Comunque si parte da 700-800 euro per una giacca, 1000 euro per una giacca tedesca, per arrivare anche a 20-30 mila euro per delle uniformi. Capito? Però scusami Aldo, tornando alla cosa di prima, a parte che tu sul profilo Facebook hai una bella maglietta con scritto Casa Pound, se non sbaglio. Sì, vabbè, certamente. Io sono militante di Casa Pound. Allora, tu hai perlomeno simpatizzante. Per carità, c'è scritto, potranno dire qualsiasi cosa, ma il fascismo è stato l'unico scatto di reni di questa povera nazione. Allora, stiamo parlando di un altro discorso. Io ho già parlato quando mi avete chiamato che non accetto discussioni politiche sulla casa. Se direi diventare ma non ho capito, ma non è un'intervista. Chiudo la telefonata immediatamente. Ma scusa, non ho capito qual è il problema. Capito? Uno, no, uno, il problema hai scritto è che su Facebook, hai scritto diverse su Facebook che sono, vuol dire, di essere fascista, adesso non lo ripeti, scusa, non ho capito qual è no, il no, punto. Ma non lo ripeto perché non è il contesto per cui. Ma che c'entra il contesto? Non è che fa soltanto, se come dire, giocare, il collezionista di robe militari. Giocare sulle parole, io sono stato ben chiaro, ragazzi. Non, sì, ma non è questione di parole. Io sono stato addirittura esponente eletto nella lista del Movimento Sociale. Non è quello il mio problema. Okay? No, non è il problema. Io ti sto chiedendo una cosa. Oggi cercato parlando che c'entra di collezionismo. Ho capito, ma uno, parliamo di collezionismo. Ma uno sta qui. Vogliamo parlare sì, di, ma lei è anche un sostenitore, non è solo un collezionista. Anche materiale partigiano. Ho collaborato anche con un museo. La domanda è molto semplice. Siccome hai scritto quella cosa, oggi sei fascista o no? Ma volete sapere, se vogliamo parlare di collezionismo, sapete. Ma ragazzi, ma non è che è una trasmissione di collezionismo questa qua, è una trasmissione in cui si parla di tutto, è molto chiara la cosa. Benissimo, io il mio problema è, cioè, non fa, vogliamo parlare, ti vergogni di dirlo, ti vergogni di dirlo. Per fortuna si vergogna, ti vergogni di dirlo. Questo è una fortuna. Ti vergogni di dirlo, no, questo è meno male, perché mica uno va in giro a dire fascista. Si vergogna di dirlo, si vergogna di ripetere. Ma meno male. Bravo, adesso meno male che si vergogna di dire fascista. Di ripetere quello che ha scritto. Ma meno male, meno male, cioè non è una roba che uno va in giro a sbandierare. Tiri dentro il tuo giochino. Non c'è nessun giochino. Ma non c'è nessun io giochino. Ti sto dicendo che quello che io sono sono perché è pubblico e palese. E appunto. Però è un conto. Ti sto chiedendo. Voi chiamate una persona. No, no, no, ti sbagli. Parlare di una cosa ne volete parlare. Ti sbagli. Tu hai dentro. Allora, no, non voi è vero. La prossima volta parliamo di politica, mi chiamate di politica. Se no, parliamo di collezionismo. Volete sapere, vabbè, collezionismo, se Feltri gli hanno regalato un busto? Bene, sono contento per lui. Vabbè. Probabilmente. Aldo, buona serata, ti ringrazio. Ciao, ciao. Prego, ciao, ciao a voi. Ragazzi, ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Ma ve ne dovete annare? Ma perché? Ma se ve dica annate, ve ne annate. Ma perché però se ne dovete annare? E bisogna ve ne annate! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. E un gatto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.